Siamo in compagnia di Sara Zavarise di Zalab per parlare di Untitled, Viaggio senza fine, di Michael Gravogger e Monica Willi, che sarà in programmazione oggi, venerdì 20 aprile a Roma all'Apollo 11, ma è la prima di alcune giornate di programmazione. Sara, benvenuta. Buongiorno a tutti. Intanto diciamo quanto sarà e quanto rimarrà l'Apollo. Allora, sarà da oggi fino al 25. Perfetto. Lo raccontiamo brevemente? Certo, allora Untitled è l'ultimo film postumo di Michael Gravogger ed è una immersione nel viaggio e una scoperta del mondo tra Italia, Balcani e Africa, alla ricerca dell'inaspettato. Michael Gravogger è stato un grandissimo documentarista che ha, per tutta la sua carriera, realizzato film documentari con grandi produzioni, ricordiamo la sua trilogia Work Woman's Dead, Worst Glory e Mega Cities, ed erano film documentari a tema. Questa volta lui ha voluto partire con un progetto estremo, ambizioso, alla ricerca di ciò che l'avrebbe stupito durante il viaggio. Quindi è un insieme di immagini lisergiche in cui lui scopre mondi, realtà, contrasti, unite e intrecciate dalla sapienza della sua montatrice storica Monica Willi. E lui aveva un progetto molto ambizioso di viaggiare per un anno quando si è trovato in Liberia affetto di malaria e purtroppo è deceduto. Da lì la scelta della sua appunto, montatrice storica che è diventata coregista di assemblare il film e di dargli un'uscita. Infatti questo film è stato nel 2015 al Festival di Berlino e noi abbiamo l'onore di poterlo distribuire oggi in Italia. C'è una persona speciale che ci ha aiutato in questo percorso che farà da voce narrante per il film, che è Nata. Ah, che bello. Senti, Sara, parlavi di stupore. C'è qualcosa e cosa di questo film che ti ha stupito e più in generale cosa ti è piaciuto di questo lavoro? La capacità di perdersi in un viaggio, quindi immagini contrastanti, immagini fortissime e la sapienza del montaggio nell'intrecciarle e far sì che elementi dalle parti opposte del mondo riescano a convivere e a creare delle emozioni molto forti. Oltre alle parole appunto interpretate da Nada, che sono appunti di viaggio di Michael Gravogger, che sono delle, come dire, delle grandi appunti di vita che fanno perdere dentro a questo viaggio. C'è anche l'elemento musica che accompagna le immagini? Assolutamente, le musiche sono composte in modo molto sapiente da Mister R, che è un grandissimo compositore con cui Gravogger già precedentemente lavorava, e sono musiche molto interessanti perché partono da suoni d'ambiente per andare a interagire all'interno di questi suoni creando musica. Quindi è proprio una sinergia continua, insomma, tra il suono e la musica prodotta dai suoni dei luoghi che Michael Gravogger ha toccato. Che distribuzione avete organizzato oltre a questa tappa all'Apollo? Come Zalab stiamo distribuendo film documentari, film fuori formato e particolari in tutta Italia. E quindi c'è stata un'anteprima, oltre all'anteprima alla Casa del Cinema di martedì, c'è stata una a Padova e girerà per tutta Italia. Infatti si può guardare proprio tutte le varie date sul nostro sito www.zalab.org. E c'è una programmazione molto fitta tra Cinema Beltrade di Milano il 4 maggio e vari altri appuntamenti per tutta l'Italia tra maggio e i prossimi mesi. Allora, ricordiamo l'appuntamento con Untitled, Viaggio senza fine di Michael Glavogger, Monica Willi, all'Apollo 11 a Roma dal 20 al 25 aprile. Un saluto e un ringraziamento a Sara Zavarise di Zalab che ha organizzato la programmazione di questo film in Italia, la distribuzione. Sara, un abbraccio, a risentirci presto. Un abbraccio grande anche a te e ricordo questa sera alle 19 all'Apollo Perfetto. 11. A presto.